perché con Pippo non c'è assolutamente problema. C'è stato uno scambio di un minuto neanche di opinioni. Tutti noi vogliamo il bene del Milan, ci mancherebbe che fosse successa una cosa simile. Riusciamo a vincere un trofeo che ci mancava da tanto tempo. Secondo me la nostra società meritava un riconoscimento. Adesso è il momento di anche di metterci la faccia e di rimanere uniti in quello su cui stiamo lavorando. Non dobbiamo mollare un centimetro. Tutti convocati di Carlo Genta. Cari miei, Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia, sottoscritto, nemmeno si sognano questa settimana di levare l'elmetto, nemmeno per un minuto, anche quando dopo parleremo d'altro, segnatamente di un motomondiale vinto da Lorenzo. È la settimana del turno infrasettimanale, la settimana delle polemiche e oggi è la carica dei moviolisti in campo. Tutti la vogliono, tranne me. Tieni giù la testa che volano mie, volano titoli, anche tu vedo che ti senti nuda come me, ma che qui più sento e meno meno meno sento, ci si sente profughi sotto bombardamento. Dicevi che il mondo va cambiato e tanto è lui che cambia te. Quello che è una battuta, mi permetto di fare su ieri, è l'atteggiamento e il comportamento che c'è stato prima, durante e dopo la partita, di assoluta tensione che è stata creata attorno alla Juventus, insulti in tribuna, i dirigenti hanno dovuto lasciare la tribuna stessa, si è visto quello che è successo in conferenza stampa successivamente con un assedio ad Alessio. Io trovo che tutte queste cose qui siano estremamente sgradevoli. La cosa sempre importante è che le cose siano fatte per errore e non per altre ragioni. Siccome è certamente per errore che è stata fatta, poi il campionato riequilibrerà tutte queste cose. Ormai la partita è finita, quindi la Juve ha vinto. Però minimizzare significa chiudere gli occhi su un episodio che, ripeto, se è lasciato andare può creare grandissimi problemi nel futuro del campionato. Quindi stiamo attenti, stiamo molto attenti. Perché il calcio è uno sport bellissimo, non cerchiamo di rovinarlo con queste cose. Parla più piano che non ti sento, sotto sotto sotto sotto bombardamento, chiudimi a chiave quando mi... E non so se nel metto ce l'ha anche Paolo Condò, inviato della Gazzetta dello Sport, uno dei miei interlocutori da sempre preferiti e con il quale oggi non sono d'accordo. Ciao Paolo. Caro Carlo, è un piacere e comunque sarà un piacere discuterne. Sotto bombardamento di Ligabue, 800240024, numero verde, tutti convocati, anche la carica dei moviolisti. Siamo rimasti in due o tre in Italia, Ulivieri, Abete, io, qualcun altro cui il calcio non lo guarda granché, ad essere contrari comunque all'introduzione della moviola. Tu oggi scrivi, ma sì, mettiamola, per determinate situazioni, replay, ecco, è importante chiarire gioco, che io... condotta violenta, gol fantasma. Sì, è importante chiarire che non voglio una moviola indiscriminata per qualsiasi cosa accada in campo, ma voglio una moviola, auspico l'introduzione di una moviola per chiarire le questioni, come dire, geografiche che accadono in campo, e cioè il fuorigioco, il gol fantasma, e poi la condotta violenta, perché quando ci sono delle cose che in settimana, che l'arbitro non vede, in settimana vengono poi punite con la prova TV, la prova TV è la dimostrazione che, avendo la TV a bordo campo, si potrebbero vedere subito e non postume, potrebbe essere postume. Ma parlo della gomitata a palla lontana, insomma di quelle vigliaccate che ogni tanto accadono sui campi di calcio e che gli arbitri, che sono concentrati altrove, non possono vedere. Roberto da Belluno scrive che io non voglio la moviola perché sono juventino e lo prenderei sempre in quel posto. Non sono juventino, ma io non voglio la moviola lo stesso. Però io voglio chiederti una cosa, Paolo. Tu giri il mondo per vedere il calcio. Allora, c'è qualche altro paese che avverte in maniera così spasmodica questa necessità? No, non c'è nessun altro paese che ne parla in una maniera così costante, e questo è il motivo per cui naturalmente l'introduzione della moviola dovrebbe essere un'introduzione internazionale. non è che noi in Italia possiamo fare come ci pare. Certo. E questo è il motivo per cui negli altri paesi questa cosa non viene sentita in questa maniera. Però dopo tanti anni nei quali vado sui campi di calcio di tutto il mondo, non ho dubbi nel dirti che noi siamo i peggiori. Sì, i peggiori in che senso? Nella percezione, nella capacità di metabolizzare l'errore siamo i peggiori. Noi siamo i peggiori nel pensare male. Nella sfiducia, nella buona fede di tutte le persone che seguono il calcio, dagli arbitri ai giornalisti. Sì. Sì. E io questa mattina l'ho passata un po' a dialogare su Twitter, dopodiché mi devo staccare perché al dialogo civile di alcuni tifosi che non sono d'accordo con quanto scrivo, e viva Dio, parliamone, dopo un po' arrivano gli insulti e quindi arrivederci, ho altre cose da fare. Sì. Negli altri paesi in generale tutto questo non viene vissuto nella maniera viscerale e allucinante nella quale lo viviamo noi in Italia, e ci sono delle ragioni storiche, le conosciamo, per cui ci sono questi episodi. E ti dirò di più, io questa proposta che l'ho mandata ieri mattina a Andrea Monti e il direttore mi ha detto scrivila, facciamo la nostra. Sì. Ecco, questa proposta io ho scelto, era da un po' che ci meditavo, ma ho scelto una domenica nella quale gli errori erano stati tanti. Certo. Certo. E a favore della Juventus domenica, ma anche della Fiorentina. Sì. E del Milan la sera prima. Sì. Errori più o meno abissali, ma tutti comunque fuori gioco, sbagliati, che cambiano la partita. E sono tutti fuori gioco, molto facilmente riconoscibili al primo replay. E questa è la cosa che mi ha convinto a prendere questa posizione, perché se l'avessi fatto in una domenica in cui c'era stato soltanto un fischio storto della Juventus, sì, automaticamente certo, tutti gli Juventini avrebbero detto ecco perché quando ci siamo noi. Invece è perfetto, perché c'è stato anche un fischio a favore del Milan in questo weekend. E mi dispiace, passami il paradosso, mi dispiace che non ci sia stato anche un fischio a favore dell'Inter. Per poter veramente fare il grande slam a quel punto. Sì, c'era stato però, sempre con il Catania una settimana prima un non fischio, ma vabbè. Sì, però attenzione. Quello era un rigore solare, sì, di Guarin, mi pare, su Gomez. Però condivido, Mario Sconcerti ieri aveva scritto sul Corriere della Sera che lui era contrario a inserire la moviola, perché comunque la moviola mostra, ma poi è sempre l'occhio umano che decide. Certo, poi chi controlla i controllori e chi controlla le loro pagine Facebook, è un lavorone. Ecco, però allora, proprio per questo motivo io i falli da contatto li lascio fuori. Sì. Li lascio fuori, quelli che deve continuare a essere l'arbitro a giudicarli. Io l'altra sera avrò visto 10 volte l'intervento del giocatore della Roma su quello dell'Udinese, non ho una mia posizione sicura al 100%. Quello che invece sui fuorigioco, lì siamo sicuri quando c'è l'inquadratura. E la cosa che più mi fa impazzire, tu hai visto la partita Catania-Juventus l'altro giorno, quello che mi fa impazzire veramente, io provo solidarietà per arbitri e guardaline, perché nel momento in cui loro prendono la decisione o in quelli immediatamente successivi, come ho scritto oggi nell'articolo, tutto il resto dello stadio sa che cosa è successo tranne loro. Questo è un paradosso assurdo. Sì. Non è possibile che quelli che devono decidere sono gli unici all'interno dello stadio a non sapere, a non poter sapere esattamente quello che è successo. Nei 15 minuti successivi, io credo che loro l'abbiano capito, se nessuno gliel'ha detto. Sì. Perché in campo quelli del Catania avevano perso la testa e menavano come fabbri. Ecco, e la partita era completamente avvelenata. Gervasoni avrà tirato fuori 5 cartellini gialli, ecco perché, che poi hanno portato anche un rosso nel secondo tempo, fatalmente, perché questi qui sentivano la rabbia e secondo me loro hanno capito di aver fatto la sciocchezza, di aver commesso la sciocchezza. Siete tutti convocati. È rigore, sì o no? Il pallone è dentro fuori. O non c'era volontà. e dategliela questa moviola. Se siete contro la moviola, siete, sentite che stupidaggine, se siete contro la moviola siete anche contro il photo finish, visto che ha lo stesso principio la moviola e il photo finish, fate bene attenzione. Da due giorni che parli di polemiche, salvo poi fare lo snob e dire che non ti interessano. Io parlo di quello che parlate voi, no? Non mi sembra di aumentare le polemiche, è semplicemente una discussione, diciamo così, accademica, perché tanto la moviola in campo non la vedremo mai, perché avete sentito prima Paolo Condò, deve essere qualcosa di internazionalmente codificato, e all'estero della moviola in campo non gliene importa nulla a nessuno. Altro discorso è quello della certezza del pallone che supera la linea, allora lì tecnologia in campo tutta la vita. Stefano da Roma, poi Cristian da Vicenza. Stefano, dica. Buonasera innanzitutto, buonasera. Ringrazio di avermi richiamato. Senta, no, io sono fondamentalmente contrario alla moviola in tutti i sensi, in tutte le salse, in tutte le forme, mentre invece sono molto favorevole al discorso di verificare post partita quelli che sono stati gli eventuali, chiamiamoli così, errori e sanzionarli. Vuoi i simulatori che si buttano in area, vuoi gli arbitri che sbagliano e che ammettono di aver sbagliato, poi tra le altre cose, che secondo me è la cosa assurda che può esistere dal punto di vista sportivo, certamente umanamente comprensibile. E a quel punto che facciamo? Stefano? A quel punto che facciamo? Non ho capito la soluzione. Gli arbitri che ammettono di aver sbagliato fanno solo bene, anzi io li vedrei bene, altro vecchio argomento in conferenza stampa. Raccontano i loro errori così come raccontano i loro errori allenatori e giocatori, normale. Cristian, Vicenza. Sì, buongiorno. Salve. Niente, io sono un tifoso juventino, per cui sì, magari sono un po' di parte, però anch'io sono contro la moviola in campo perché non penso sia la soluzione. A questo punto però, viste tutte queste polemiche, la chiederei solo per la Juve, in modo che almeno noi tifosi juventini potessimo godere dei nostri tre punti, che a mio avviso anche domenica, sì, siamo stati forse aiutati per un gol. No, non forse, certamente. No, sì, certo, però possiamo anche dire che c'era un rigore quasi sicuro su Pogba, uno molto sicuro su Chiellini e uno dubbio forse su Giovinco alla fine, ma questo non cambia, perché alla fine a noi abbiamo preso i tre punti e veniamo classificati come i ladri. A questo punto diamo la vittoria pure al Catania, prendiamoci, cioè fossi io il presidente della Juve dico tenetevi i tre punti, no, perché poi alla fine secondo me la squadra migliore come sempre vince. Questo era un tempo, lo è stato l'anno scorso con qualche aiuto, e la squadra comunque che magari ha comunque aiuti, perché abbiamo ricordato l'Inter, il Milan, la Fiorentina ieri, sì, che per carità sono tutte grandissime squadre, ma alla fin fine secondo me l'errore o i due o tre errori andranno a pesare a fine campionato? Secondo me si bilanciano come quasi sempre, è che quelli a favore della Juventus, del Milan e dell'Inter fanno un casino infernale molto più di tutti gli altri. Poi se c'è qualcuno che ha voglia di tenere le statistiche lo faccia pure, magari ce le venga anche a raccontare, io non lo farò perché sono cose che domani ho già dimenticato. Piuttosto ha ragione secondo me Paolo Casarin nello scrivere oggi su Corriere della Sera che con Catania Juve può finire un esperimento lodevole, perché vorrebbe innalzare i limiti umani di ogni essere giudicante e in movimento sul campo, ma affrontato con superficialità. Per esempio è mancato lo studio delle funzioni specifiche del rapporto tra arbitro centrale e arbitro di supporto fermo dietro la porta. E poi prosegue Casarin, perché Rizzoli è riuscito a far breccia sull'autonomia e sulla presunzione di svariati colleghi per la sua credibilità di arbitro centrale, che finisce per ridurre a comprimario un arbitro che dipende da lui. Quindi continuo a pensare che questa trovata subito, che questa soluzione subito afferrata al volo dal calcio italiano sia stata poco preparata anche da un punto di vista tecnico, e questo non ha fatto altro che aumentare il casino e la confusione. Io invece saluto e ringrazio un collega di Sky, Francesco Pierantozzi, che di Sky è la voce del rugby. Ciao Francesco. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, tu domenica sera, nel pieno del mentre bruciava il fuoco di Pulvirenti, hai mostrato agli spettatori di Sky Sport 24 un episodio del rugby britannico. Una partita, era un derby di Londra, una meta non meta, all'ottantesimo, quindi alla fine del match, che avrebbe cambiato in un modo o nell'altro la partita. L'arbitro del rugby può chiamare un collega che invece è integrato, a differenza di quello di cui scriveva Casarin oggi, con lui, sta in una regia dove ha tutti i segnali del campo, delle varie telecamere, e può andare a vedere nei dettagli quello che è successo. L'arbitro ferma il gioco e dice: andiamo a vedere se è meta o c'è qualcosa per cui non la devo assegnare. Vanno a vedere e l'arbitro alla fine decide su appunto segnalazione del TMO, Television Match Official, che la meta sarebbe stata da assegnare. Ora, nessun problema, si accetta la decisione, finisce la partita, vincono gli Harlequins a casa dei London Irish. Qual è invece la considerazione? Che anche in questo specifico caso, anche l'aiuto tecnologico non ha dissolto i dubbi, anzi si aprivano due strade. E tuttora possono esserci due interpretazioni: il giocatore ha commesso in avanti e quindi la meta non è da assegnare, oppure il giocatore in effetti non ha commesso in avanti perché la palla è caduta indietro e la meta è da assegnare. I dubbi non vengono risolti, c'è soltanto un'interpretazione di chi sfrutta la tecnologia, ma c'è la cultura dello sport, del rugby, delle persone, degli spettatori, dei giocatori, di tutti, che dicono: la decisione è stata presa, benissimo, l'accettiamo. E questo è il salto culturale, esatto, da fare. Esatto, esatto. Saremo banali a ripeterlo tutte le volte, sarà un refrain costante, però la verità è proprio questa. Insomma, probabilmente in quel caso la moviola ha toppato. Non so se poi siano andati a controllare la pagina Facebook del Television Match Official, questo non lo so. Però, caro Francesco, la differenza è nella percezione dell'errore, no? Solo che noi nel calcio e in politica ci divertiamo così, scuola di cattivi pensieri, qualche volta confermati dalla realtà. Forse perché siamo latini, non lo so, siamo italiani, siamo portati a essere polemici, a cercare sempre una dietrologia, però sì, in effetti quello ha deciso. Guarda, ti assicuro, io ho visto tantissime partite di rugby, ho giocato malissimo a rugby per 10 anni, guardando quell'azione a velocità naturale non avrei saputo decidere, quindi ti assicuro che è veramente difficile prendere una decisione senza l'aiuto della tecnologia. Oltretutto in questo caso la tecnologia non è arrivata a determinare cosa esattamente sia accaduto, perché si può decidere in un modo e si poteva decidere nell'altro, ma in un caso o nell'altro il problema non si poneva nemmeno, perché a tutti sarebbe comunque andato bene. Sì, quindi tu la vedresti la tecnologia nel calcio? Ma se c'è, la tecnologia va usata, però un'altra cosa: nel tennis, come sai, c'è l'occhio di falco, sì, che stabilisce se la palla è buona o è fuori, ma l'occhio di falco è presente soltanto sui campi coperti dalla televisione. Ora, è un'ingiustizia, perché certo, il torneo è uguale per tutti. Certo. Se io sono in un campo secondario, perché non devo aver diritto a poter usufruire di questa parte del regolamento che mi consente di dire: no, guardi, il giudice ha sbagliato, andiamo a vedere se è effettivamente buono o fuori. Già questa è una stortura, quindi la tecnologia dovrebbe essere per tutti nello stesso modo, non puoi dire serie A sì, serie B no. No, certo, anche qui si pone un problema di democrazia, questo mi pare evidente, no? di un gioco a due velocità. E certo, ma è così. Il problema è che anche con la tecnologia in Italia, io sono sicuro, non risolveremmo la questione, perché se io prendo la tecnologia e poi dico: ma in effetti quel piede mi sembra un millimetro dietro e quindi non è fuori gioco, cioè no, ma è un millimetro avanti, il giorno dopo sui giornali, sì, anche sì, il Television Match Official del calcio ha deciso e ha certo, guardato male. E poi si va a controllare il controllore, il suo sito Facebook, eccetera eccetera. Ma un'ultima cosa, quanto è cambiato il rugby in meglio, in peggio, o con l'introduzione di questo strumento, secondo te? Secondo me ci sono, diciamo, meno dubbi su certe fasi di gioco, ma nessuno si è mai permesso di contestare un arbitro, di criticarlo. è una cultura diversa. Il professionismo ha portato un cambiamento epocale, no? Con gli stipendi, i soldi e quindi maggiori interessi, le scommesse. Ecco, credo che alla fine siano quasi più tutelati quelli che vanno a scommettere sulle partite che non i giocatori che avrebbero comunque accettato un verdetto dell'arbitro anche senza tecnologia per motivi culturali, per educazione sportiva e per tutto quello che appartiene, diciamo, al mondo anglosassone. Lo penso anch'io. Grazie. A voi. Alla prossima. Grazie a Francesco Pierantozzi. Carmine da Napoli, buongiorno. Mi perdoni, Carmine da Salerno, ma da che Salerno. Mi trovo nel napoletano. Si trova nel napoletano, salve. E complimenti per tutto. Grazie. No, e ascoltavo una radio napoletana, un po' indignata, perché sa, la radio sportiva adesso ce l'hanno con la Juve, eccetera, eccetera. Però hanno intervistato Pesaola, il petisto, e lui gli ha detto semplicemente che sembra che la squadra più forte sia favorita, ma è semplicemente più forte, punto. È stato sempre così. Basta, lo penso anch'io. Poi noi abbiamo degli esempi in cui la squadra più forte ha avuto qualche problema con la giustizia, no? Lei se lo ricorda? Vabbè, anche secondo me era la più forte, quella è un'altra storia. È un'altra storia quella lì. Quella è un'altra storia, però la scuola dei cattivi pensieri qualche volta viene confermata dalla realtà, nel calcio come in politica, dalle nostre parti almeno, e questo lo sa benissimo anche lei, Carmine da Salerno in viaggio per Napoli. Tutti quanti, 800 24 00 24, numero verde, anche quando tra poco parleremo di un motomondiale che si è chiuso nel segno di Lorenzo, nuovo cannibale, nuovo asso pigliatutto, e adesso c'è già attesa per ciò che verrà con Valentino Rossi, che la prossima stagione vorrebbe essere della partita, vorrebbe dimostrare probabilmente soprattutto a se stesso di essere ancora un pilota. Intanto oggi giorni di conferenza stampa, perché il Milan gioca questa sera, come sapete, a Palermo, una più disperata dell'altra. La più disperata in questo momento è il Palermo, terz'ultima in classifica con 7 punti, un Milan che lascia a casa Boateng, che reinserisce Mexes dopo la punizione dell'esclusione nell'ultima gara, e in attacco conferma Pato oltre all'ovviamente intoccabile El Shaarawy. Dunque giorno di conferenze stampa con Zeman che dice: credo ancora al terzo posto, le prestazioni, anche se non per 90 minuti, mi dimostrano che questa squadra quando vuole può giocare con tutti. Sì, caro Zeman, però si gioca 90 minuti e se ne domini 15 e poi finisci per perdere come è successo l'altro giorno con l'Udinese, il terzo posto mi sa che te lo scordi. Prosegue Zeman: lo ha dimostrato sempre tranne che a Torino contro la Juventus, giocatori svogliati e molli in campo, io non la vedo così, paghiamo errori di distrazione, purtroppo errori di distrazione che sono, io direi, un po' sopra la norma. Stramaccioni, per ora in campionato non ho ravvisato una tendenza pro Juventus, a Catania la cosa è saltata all'occhio perché ci sono state due decisioni in un senso. Bene, ha ragione Stramaccioni. Enrico, provincia di Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Antonello su Twitter, a proposito, su Twitter vogliamo arrivare a 5200 followers, quindi muovetevi. Ciascuna delle due squadre può chiedere 2 instant replay a partita per qualsiasi cosa, in totale 4 interruzioni, questa è la sua proposta. Anche qui non sono d'accordo, nessuna interruzione, decide l'arbitro, decidono gli arbitri che magari sono al momento un po' troppo numerosi su quel prato verde. Dunque dicevamo, Enrico? Niente, guardi, premesso che per quanto riguarda Juventus Catania c'è stato l'errore degli arbitri, e indubbiamente premesso anche che da parte mia io sarei per l'intervento tecnologico, ma io credo che è da sottolineare un aspetto da parte della Juventus che è stato poco sottolineato: il comportamento dei giocatori in panchina. No, non, magari, esiste, non è vero. E io trovo che l'arbitro non è vero che è stato grave, poco è stato sottolineato, non esiste di non sanzionare dei giocatori. Sono d'accordissimo, ma non è vero, Enrico, l'unica cosa non vera è che non è stato sufficientemente sottolineato, perché l'abbiamo sottolineato tutti quanti, ma non solo noi. È stato sottolineato da più parti come In quel caso c'erano dei cartellini da estrarre, perché il giocatore non si può permettere di alzarsi dalla panchina e andarli a far casino intorno all'arbitro se ne sta seduto e punto e basta. Quindi in quel caso è stato un errore in aggiunta a tutti gli altri errori, in un clima di confusione che è diventato a quel punto insopportabile, no? Giuseppe, dalla provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo soltanto evidenziare che gli arbitri adesso sono arrivati a 6 ed è una cosa antipaticissima da vedere, almeno per me o per che seguiamo le partite a casa, vedere un arbitro che prima di prendere una decisione lascia il tempo di continuare l'azione per poi interromperla. Cioè è proprio una cosa che non si può vedere. Cioè uno, l'arbitro fischiasse subito e prendesse la decisione, cioè visto che poi i dubbi rimangono con tutti questi arbitri che sono presenti sul terreno di gioco. A quel punto tanto male introdurre la moviola in campo, visto che l'arbitro deve fischiare in ritardo per poi prendere una decisione. Cioè, quando l'arbitro fischia dopo 30 secondi, dopo 40 secondi che l'azione sì, ormai sta continuando. Sì, ma questo rientra comunque nella, secondo me, mi pare di aver capito quello che intende, in questo esperimento molto affrettato, probabilmente azzardato, del conciliabolo tecnologico che oggi c'è tra i troppi arbitri che ci sono in campo. Insomma, abbiamo usato questo esperimento, l'abbiamo preso al volo stufi dei gol di Muntari, stufi delle polemiche, allora subito in campo gli arbitri di fondo, senza definire esattamente quale fosse il loro ruolo. Serve una distribuzione e una attenzione maggiore anche, secondo me, nella designazione degli arbitri di fondo, e questo lo sottolinea pure Casarin oggi scrivendo: bisogna studiare a fondo questo passaggio di quote di potere tra arbitri, stabilire le priorità tecniche, avere un arbitro centrale che non perda il suo primato e fare delle designazioni equilibrate, non prevaricanti, per gli arbitri di porta. Questo è sacrosanto, a mio parere. Poi, cosa volete che vi dica? Io sono fondamentalmente per l'imperfezione del calcio. Sono per l'imperfezione. Non chiedo la certezza del diritto, la verità ultima nel calcio. A me piace imperfetto, come mi piacciono le donne che non sono poi così perfette come quelle che si vedono sui giornali. Intanto parliamo d'altro, via. La puzza di benzina mi fa girare la testa, quando sto su di lei è proprio la mia festa. Attenzione, Pedrosa in terra, clamoroso, Pedrosa in terra, abbiamo detto che doveva usare, che non aveva niente da perdere, ci ha provato, e a questo punto attenzione perché la strada per Jorge Lorenzo è tutta in discesa, quest'anno va detto un po' di fortuna anche l'ha avuta. E quando io la guardo e penso che è la mia, mi sento il più gasato, pischello che ci sia. Grazie mille, è stato un anno molto duro perché la verità è che tanto Dani come la Honda hanno spinto molto per toglierne il campionato, però è stato molto costante, molto concentrato e alla fine questo ha dato il suo frutto. Sono molto contento e devo ringraziare a tutta la squadra, alla mia famiglia, ai miei amici, a tutti gli sponsor, e già teniamo un altro titolo per la Spagna. Roberto Ungaro, direttore di Riders, buongiorno. E mio amico. Ciao Carlo. E mio Ciao Carlo, caro buongiorno. Amico, buongiorno a te. Per fortuna la moviola nel motociclismo non serve. Ah, lì no, lì è davanti all'occhio di tutti. Sentivo Carlo che non ti piace la perfezione. Se è così, allora non ti può piacere un pilota come Orge, perché lui è la perfezione in persona. Sì, infatti non è il mio preferito. Ma quest'anno peggior risultato, secondo, e quindi questo dice tutto, il suo quarto mondiale, quello della maturità. Senti, è il nuovo Cannibale? Sì, adesso è veramente perfetto e spietato. Lo si accusa un po' di aver avuto il braccino nella seconda parte di stagione, dove è venuto fuori Pedrosa, ma io dico che i mondiali si vincono anche così, di testa. L'intervista che gli abbiamo fatto, che diceva, è lui a dirlo, che dice i campionati si vincono con la costanza e arrivando spesso sul podio, ma con tante vittorie e anche tante cadute. Cioè non si vincono con tante vittorie e tante cadute, ma con la costanza. Lui quest'anno è stato costante. Secondo me il merito che ha avuto è di non soccombere alla pressione psicologica che gli ha fatto Pedrosa nella seconda parte di stagione. Il colpo di fortuna che ha avuto Robby è stato quello di non aver Stoner fino in fondo, Allora, se ti piace l'imperfezione, è Stoner l'imperfezione, perché di testa è imperfetto, non accetta i giochi di squadra, non la manda a dire, il suo stile è imperfetto ma velocissimo. Sì, Stoner l'ha buttato via il mondiale. Pedrosa si è sbloccato quando Stoner non c'era più, perché soffre Stoner, e quindi di testa si è liberato. Secondo me ha fatto bene attaccare fin dall'inizio, poi ha esagerato e a un giro e mezzo subito è caduto a Filip Allen e lo ha messo su un piatto d'argento questo mondiale. Ma Lorenzo se l'è guadagnato, a 20 stretti non si può dire niente, perché ripeto, il peggior risultato secondo, e poi è stato abbattuto anche lui, perché abbiamo 1-0 di Pedrosa in Italia, ma 1-0 c'è stato anche per Orge, quando Bautista lo butto giù ad Assen. Quindi tirata la linea, non gli si può dire niente. Onore al merito, e adesso di testa è veramente cresciuto. Mi pare di capire che a te la perfezione piace. No, a me piace l'imperfezione, io sono come te. Io rimpiangerò Chesi, perché Chesi è una persona che non parla in politichese, non accetta tanto questa gestione della Dorna, che è comunque una regia occulta, che fa e disfa, fa il bello e cattivo tempo, e è uno appunto che ha uno stile che lo guardi e ti viene la pelle d'oca se sei motociclista. Quello ce lo regala solo Stoner, io lo rimpiangerò davvero tanto. Però io ho imparato sulla mia pelle che poi quello che rimane è il nero su bianco negli annali, cioè i mondiali vinti. Orge è il quarto, è il secondo della MotoGP, l'unico spagnolo a conquistare il secondo titolo, ha solo 25 anni. Certo. Lui non vuole stare tutta la vita, ha detto ancora 3-4 stagioni, poi mi ritirerò. E adesso, adesso ovviamente viviamo nell'attesa di ciò che succederà l'anno prossimo sul fronte Valentino Rossi. Guarda, secondo me Vale non aspetta tanto, è come i militari che contano il countdown per finire l'anno appunto di militare. Lui non aspetta Valencia, aspetta il martedì dopo, dove tirerà fuori la sua tuta nera senza sponsor e tornerà sulla sua amata Yamaha. E lì vedremo, secondo me i podi ce ne saranno diversi. Vincere il mondiale a mani basse, come facevo una volta, non sarà così facile. Io non lo so, lo vorrei, perché è un bene per tutti noi. Però lui è stato 2 anni nel congelatore, senza guidare come sa far lui. Il rosso gli è stato indigesto, lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto. Gli altri però sono andati avanti. Orge adesso è veramente un martello. E Pedrosa abbiamo visto cos'è in questa parte finale della stagione, quindi pensiamo al 2013, dove può partire libero da Stoner. Avrà Marquez, che è una rivelazione ma è giovane, deve imparare. Quindi Pedrosa così, un Orge che è un vero martello, secondo me Vale deve sudare 7 camicie per arrivargli vicino. Può farcela, il potenziale c'è, ma non è così scontato, assolutamente. No, però avrà una motivazione spaventosa, Robby. Avrà una motivazione spaventosa. Io quello che dico non è però il nuovo che avanza, perché Vale siamo abituati. A me piacerebbe vedere dei nomi nuovi con gare spettacolari, e invece così non è, Carlo. Infatti si sta discutendo, sai, la nuova gestione di Dorna, che ha preso anche la Superbike, quindi sotto lo stesso tetto, cosa ne sarà per il futuro? L'anno prossimo è ancora uguale la Superbike, però si dice che 2014 diventerà quasi una Superstock, cioè moto veramente di serie. E questo per dare più respiro alla MotoGP, che deve diventare più economica, ma deve tornare a regalare spettacolo, perché adesso è molto avara. Dunque, Aldo si è convocato su Twitter scrivendo che oggi ci starebbe bene un bell'audio di relativo a Maradona per il suo compleanno. E noi ce l'abbiamo, perché siamo avanti. Ce l'abbiamo, Federico Buffa. Al Parco Saavedra, che questo qua è uno che passa una volta ogni 200 anni, forse mai più. Ecco perché una spedizione va a Visciafiorito e chiede a Doña Tota, per cortesia, ci fa vedere un documento, un qualsiasi certificato di nascita di suo figlio Diego. Doña Tota cerca, non era così importante averli all'epoca, e lo trova effettivamente Diego. è del 60. Don Francis, che non si è mai preso il merito di scoprire Maradona, ha detto: Maradona te lo porta a Dio. Tu devi fare una cosa sola, stare attento. Lo mette in squadra. Non gli ho mai insegnato nulla, non può insegnare nulla a Maradona. Un ragazzo di 8 anni che gioca così, lo lasci essere se stesso. Don Diego ha una grande idea. Mio figlio giocherà per voi, non vogliamo niente. Mi raccomando però, sostenetelo. Sostenetelo perché probabilmente è un po' piccolo. E questo era un brano del racconto di Federico Buffa sulla storia di Maradona. Quando l'Argentinos Juniors bussò a casa sua nel 68, appunto Diego aveva 8 anni, non ci credeva nessuno. Franco, provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo chiedere se ci sta una piccola parentesi di basket. Ci sta sempre, ci sta sempre. Esatto. Una considerazione su questo campionato che vede la strafavorita e corazzata Milano a 4 punti, le altre favorite Cantù e Siena a 6 a 8, in testa queste Sassari e Varese che mi sembra che stanno sorprendendo veramente tutti. Cosa ne pensate, se possono tirare, fino a quanto possono tirare? Meraviglioso. Speriamo il più possibile. Su Milano vabbè, è un gran dilemma, no? Perché mi pare che abbia ha preso la falsa riga dell'anno scorso, che abbia imboccato di nuovo la strada dell'anno scorso quando quest'anno non c'erano le ragioni, quindi la squadra doveva essere più rodata, doveva essere più pronta nell'approccio al campionato. E se vogliamo parlare di una Milano in crisi, possiamo anche farlo. Dal punto di vista dell'organico, del personale, rimane la mia favorita per lo scudetto. È chiaro però che questa squadra, così com'è, non va da nessuna parte. Varese, meravigliosa. Secondo me la verità assoluta, quella che racconta oggi la classifica di Serie A, cioè Sassari e Varese, sono le due squadre che giocano meglio a pallacanestro in Italia in questo giorno, 30 ottobre 2012. Lo so, è presto, i giochi sono appena iniziati, ma intanto ci divertiamo e sentiamo la voce di Frank Vitucci, che ieri ha vinto il derby contro Cantù. Come se un sogno, lasciato lui dormire, se ne andava messo. Effettivamente io devo fare veramente devo fare i complimenti ai miei anzitutto, perché oggi era una partita durissima, lo sapevamo mentalmente anzitutto. L'abbiamo affrontata molto bene a questo punto di vista. Audio non perfetto, ma abbiamo sentito: se è un sogno lasciatemi dormire. Voglio farvi notare, cari amici, che un pronostico l'ho beccato. Ieri me l'avete chiesto, e ho dato favorita Varese su Cantù. Ed è inutile, Franco Piantaneda, che fai così. Enrico, sempre da Varese. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Rimango sul basket, ma mi sono bruciato il bonus per quest'anno. Ah, esatto, ma niente più complimenti. No, mi sono bruciato il bonus sui pronostici, volevo dire. Ok. No, i complimenti arriveranno sempre, non si preoccupi. Grazie. Rimango sul basket, ma mi sposto oltreoceano, visto che stanotte inizia il campionato. Sì. Io sono un tifoso dei Celtics di vecchia data, ma in seconda battuta di Oklahoma City in ottica anti-Lakers e anti-Miami. Sì. E volevo chiedere il suo parere su, a mio avviso, tragico scambio che ha visto il Barba andare a Houston e lasciare Oklahoma con soltanto Durant e poco altro. Insomma, sono un po' in ansia. Sì, non ha tutti i torti, evidentemente qualcosa deve essere successo. Poi le logiche NBA sono talmente complicate che è difficile leggerle fino in fondo. Qualcosa deve essere successo nella finale dell'anno scorso, dove il Barba, come lo chiama lei, non è riuscito ad essere decisivo. Io insomma non Oklahoma la vedo comunque come una squadra che può dare molto fastidio ai Los Angeles Lakers. Da questa parte sarà divertente, i vecchi Celtics che ci riproveranno, Secondo me senza tantissime chance, spero di sbagliarmi, perché anche io simpatizzo per gli uomini in bianco-verde. Allora, notizia di cronaca calcistica, problema muscolare per Cavani che non ci sarà a Bergamo domani contro l'Atalanta, e la situazione viene monitorata momento per momento, ma Napoli di nuovo senza la sua superstar. Lorenzo da Catania. E questa è un'ultima notizia che mi sembra debba essere addebitata alla Juventus, questa di Cavani. Colpa della Juve. Scusi, scusi l'ironia. Ma io dico, colpa della Juve. Milan-Genova, gol in fuorigioco. E il Genova non è in una situazione buona di classifica. Mm. Silenzio. Il signor Preziosi non ha sbraitato come è solito fare. Mm. E Bologna-Inter, due gol molto ma molto sospetti. E il Bologna non ha sbraitato. Fiorentina-Lazio idem, la Roma ancora invece di recriminare su Zeman, Zeman ha detto che gli mancano 7 punti in classifica. Appunto, per colpa degli altri. Zeman gli mancano 7 punti perché siccome l'incapacità di dirigere una squadra la si vede domenica. Ha detto che gli mancano 7 punti per colpa degli arbitri. Ora io dico, ma è possibile che qualsiasi cosa succeda alla Juventus debba avere questa eco così vistosa, così deprecabile, così... È possibile, sì. Beh, insomma, Lorenzo, alle altre squadre succedono. No, ma guardi che lei sta esagerando, perché secondo me è vero che l'eco intorno alla Juventus, squadra favorita, squadra con lo scudetto sul petto, squadra monitorata, squadra con un certo passato. E non mi riferisco al passato moggiano, con una lunga storia di vittorie, una squadra che è mancata a questi livelli al calcio italiano, e ne sono convintissimo. Insomma, è sorvegliata speciale, però non, quello che è successo a Catania nella sua dinamica è stato talmente clamoroso che ha scatenato tutto questo putiferio. Vabbè, adesso vi saluto e torno domani alle 2, dalle 2 alle 3, Franco Piantanida in redazione, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. La mia opinione è che Varese e Sassari in questo momento sono le due squadre migliori del campionato, e la mia opinione per chiudere è che Varese è favorita su una Cantù che è ancora al cartello dei lavori in corso appesi al collo. Se uno mantiene sempre lo stesso profilo, il famoso passo da montagna, non deve né correre né andare piano, sempre lo stesso passo.